Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Un terremoto devastante e uno tsunami colpisce il Giappone, 42 morti, ma è emergenza in tutto il Pacifico. Messaggio dell'Unione Europea: Gheddafi se ne deve andare, ma il Reis minaccia di nuovo, stoppa la lotta al terrorismo e all'immigrazione clandestina. La mafia cresce a Milano e al nord, dice il governatore Draghi, con la crisi aziende più vulnerabili. Recupero di Serie A col Brescia, questa sera l'Inter tenta di tenere il passo del Milan. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Paglierini. Iniziamo questa edizione di GR24 con un'ampia pagina dedicata a questo devastante terremoto che ha colpito questa mattina il Giappone, ma non c'è solo il terremoto, anche lo tsunami. Ci aggiorna in diretta Valeria De Rosa. Buongiorno Valeria. Buongiorno a te Enrico e a tutti i nostri ascoltatori. Allora direi di cominciare un po' ripercorrendo che cosa è successo fin dalle prime ore di questa mattina per quanto riguardava l'Italia. Era il primo pomeriggio in Giappone, la prima scossa registrata è stata di magnitudo 7.8. Si sono susseguite numerosissime scosse, tra cui la più potente è stata di magnitudo pari a 8.9. Ricordiamo che questo è il terzo giorno consecutivo in cui in Giappone si registrano scosse violente, ma nessuno, anche tra i più esperti sismologi giapponesi, si aspettava una giornata quindi degli esiti di questo tipo. Immediato è scattato l'allarme tsunami che ha investito le coste nipponiche nord-orientali. Nella città di Sendai, che si trova nella prefettura di Miyagi, la più vicina all'epicentro, l'acqua ha invaso qualsiasi cosa. Nella prefettura di Fukushima lo tsunami si è spinto per addirittura 5 chilometri all'interno della costa. Secondo l'ultimo bollettino dell'Agenzia Meteorologica e Geologica sono interessati tutti i paesi che si affacciano sul Pacifico e particolarmente delicata sembra nelle ultime ore la situazione alle Hawaii, dove sono già state evacuate le coste. Stessa procedura è stata adottata nelle Filippine. Gli Stati Uniti sono stati i primi a rendersi disponibili per gli aiuti, si sono aggiunti poi la Germania, la Francia, la Cina. È di pochissimi istanti fa una notizia appena battuta dalle agenzie che riguarda il nostro Presidente del Consiglio. Siamo rimasti profondamente emozionati nel vedere le immagini del terremoto e del successivo tsunami in Giappone. Siamo vicini al popolo giapponese in questa tragica circostanza, ha detto Berlusconi, e siamo ovviamente pronti a dare tutta l'assistenza possibile. Anche le Nazioni Unite, come dicevamo, hanno fatto sapere di avere pronte 30 squadre di soccorso pronte appunto a partire. Siamo in collegamento telefonico con, forse mi dicono, con Stefano Carrera. Ancora non è disponibile il collega Carrera, allora io a questo punto restituisco la linea a Enrico Pagliarini. Sì Valeria, attendiamo appunto di sentire Carrera in onda. Noi abbiamo collegato Giampaolo Cavinato, che è un ricercatore dell'Istituto di Geologia Ambientale del CNR di Roma, si occupa anche di terremoti. Cavinato, buongiorno. A voi. Un terremoto di questo tipo fosse accaduto in Italia, giusto per capire quali sono le dimensioni, o comunque se fosse capitato in Europa sarebbe stato molto più devastante. Ci dia anche un'idea di quanto potente è stato questo sisma. Guardi, innanzitutto è stato un evento eccezionale, perché una magnitudo così elevata si verifica ogni 100 anni. Credo che sia tra le più elevate mai registrate nel pianeta, insomma tra le più alte mai registrate. Per avere un ordine di grandezza, diciamo che l'energia liberata, per confrontare con quello che è avvenuto in Italia, di nostra memoria recente, confrontata col terremoto dell'Aquila, è circa 3.000 volte più energia di quello dell'Aquila. Immaginate quanta energia è stata liberata in quella zona, che comunque, ricordo, è una delle più sismiche del mondo, forse la più sismica del mondo, e quindi chiaramente l'energia ha prodotto dei danni, anche perché l'ipocentro del terremoto è a circa 30 km di profondità. Rimanga con noi Cavinato. Valeria, abbiamo Carrera, se non sbaglio, giusto? Sì Enrico, allora siamo in collegamento telefonico con Stefano Carrera del Sole 24 Ore, che saluto. Buongiorno Stefano, allora quali sono le ultime notizie? E le ultime notizie sono sempre più gravi, nel senso che mentre il bilancio ufficiale delle vittime già accertato è salito a circa una cinquantina, è arrivata la notizia che una nave con a bordo un centinaio di persone sarebbe stata letteralmente spazzata via dallo tsunami, e quindi ci sarebbero anche questo centinaio di persone che sono andate incontro a questa fine orribile. L'altro sviluppo è che il governo giapponese ha dichiarato una situazione di emergenza per quanto riguarda gli impianti nucleari del paese, nel senso che la regione più colpita dal terremoto è anche una di quelle che ospita più impianti nucleari nel paese. Sono 11 impianti nucleari nella regione, cioè 11 reattori nucleari in 4 impianti, e in uno in particolare, denominato Fukushima 1, ci sarebbe un problema di raffreddamento che non è stato ancora risolto. Comunque il governo sottolinea che si tratta di una dichiarazione di emergenza per motivi precauzionali. Senti Stefano, tu sei a Tokyo, nella capitale, ci puoi anche raccontare che cosa è successo anche nei minuti subito dopo il terremoto? Sì, dunque erano le 2.46, era una bella giornata primaverile e ormai la gente insomma si preparava al weekend, ed è successo questo terremoto che, a detta di tutte le persone che ho incontrato, salvo quelle che hanno vissuto il terremoto di Kobe del 95, non è mai successo in queste proporzioni. Cioè la terra ha tremato e anche gli edifici hanno tremato, cioè si vedeva dall'esterno vari edifici che proprio ballavano, proprio dondolavano edifici, quindi era una scena impressionante. Però sostanzialmente la popolazione ha reagito con calma, con una calma ammirevole direi, perché cioè in altre circostanze, cioè altre persone, penso a cosa sarebbe accaduto in Italia, cioè non solo con una scossa di questo genere gli edifici sarebbero crollati, ma anche ci sarebbero state reazioni di panico di massa. Invece la gente che è abituata ad affrontare, cioè a sentire, a percepire queste scosse di terremoto, ha reagito con una certa calma. Ha cercato di telefonare, ma i telefonini la rete dei cellulari si è bloccata, per cui abbiamo visto nel paese dei cellulari, cioè il Giappone, lunghe file alle poche cabine telefoniche. Insomma, ci sono anche stati anche alcuni alberghi trasformati in bivacchi, perché la città è paralizzata a livello di trasporti. I trasporti su rotaia sono fermi, per cui molte persone, anche decine di migliaia di persone, hanno avuto difficoltà a tornare a casa, alcune non ci sono riuscite, e anzi le stesse autorità hanno detto di rimanere in ufficio, perché con la metropolitana che non funziona, con le linee ferroviarie di superficie che non funzionano, per molte persone è stato impossibile tornare a casa. E allora io ringrazio davvero Stefano Carrera, collega del Sole 24 Ore, con cui sicuramente torneremo a collegarci nel corso del pomeriggio per sapere poi gli sviluppi, mentre stiamo vedendo le immagini che arrivano dal Giappone, che sono trasmesse da tutte le TV internazionali, e sono immagini davvero spaventose, immagini aeree che sorvolano le coste del Pacifico del Giappone. Allora io chiedo se posso al dottor Cavinato se è normale che, per quanto riguarda l'allarme tsunami, questo si possa riversare in tutte le direzioni, quindi l'allarme tsunami interessa tutti i paesi del Pacifico, sia verso est che verso ovest, è normale? Certo che è normale, perché una scossa di così alta energia produce un'onda, può produrre un'onda impressionante, così come quella si è verificata immediatamente a pochi minuti dall'evento nelle coste del Giappone, e il tempo necessario al treno d'onde di arrivare a attraversare il Pacifico investirà progressivamente come una forma d'onda, come quando noi buttiamo un sasso in uno stagno, si propaga l'onda fino ad arrivare, una volta che tocca le rive, in prossimità della riva, aumenta di ampiezza e di conseguenza può generare anche uno tsunami. In modo particolare adesso come sentivo dal radiogiornale, evacuando le zone delle Hawaii e poi progressivamente dell'altra parte del Pacifico, in Cile, dove l'onda ci metterà diverso tempo, ci metterà diverse ore, ma arriverà a raggiungere anche quelle cose. Chiaramente l'ampiezza delle onde sarà minore rispetto a quella del Giappone, ma comunque bisogna prestare assolutamente attenzione e mettere in sicurezza le persone che vivono in quelle aree. Caminato, le faccio un'ultima domanda, visto che di terremoti purtroppo si parla solamente quando avvengono, le faccio una domanda sull'Italia. Si sta facendo qualche cosa per la prevenzione, che è un aspetto molto importante, dopo anche i recenti fatti? Certo, questa è la cosa più importante, la prevenzione è la prima, diciamo, arma, tra virgolette, che va usata e va pianificata per poter diminuire quelle che sono la pericolosità, la vulnerabilità e il rischio per la popolazione. La cosa che noi dobbiamo fare è conoscere il territorio, conoscere come risponde il nostro territorio in funzione della diversa disposizione degli edifici disposti su un strato geologico che è molto articolato e diversificato sul nostro territorio, che è geologicamente giovane, e una volta capito che cosa avviene, come risponde il terreno in seguito alla sollecitazione, si può pianificare un interventi mirati a costruire le case in sicurezza o a mettere in sicurezza le case che sono già realizzate. Questo è l'impegno maggiore, si sta facendo questo a livello legislativo e soprattutto dopo il terremoto dell'Aquila del 2009, è un intervento che verrà prolungato a livello regionale, quindi è estremamente importante per la nostra sicurezza, o quantomeno cercare di prevenire il più possibile problemi e danni e perdite di vita umana alla popolazione. Ringrazio Giampaolo Cavinato, ricercatore dell'Istituto di Geologia Ambientale del CNR di Roma, per essere stato con noi. Sono le 13:12 minuti. Valeria, ci sono altri aggiornamenti dal Giappone? Ricordiamo anche quanti sono a questo punto i morti. Allora, i morti, secondo le ultime notizie, sono 42, ma è sicuramente un bilancio destinato a salire. Abbiamo sentito anche di questa nave con a bordo 100 persone colpite dallo tsunami proprio nell'Oceano Pacifico. L'ultima notizia che possiamo dare è relativa al messaggio che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato all'imperatore del Giappone. La notizia delle gravissime conseguenze del sisma che ha colpito il nord-est del Giappone, provocando vittime e grandi distruzioni materiali, mi ha profondamente addolorato, ha scritto Napolitano. In questo momento così drammatico, l'Italia, unita al suo paese da saldi vincoli di profonda amicizia, si stringe al popolo giapponese. Con questi sentimenti desidero trasmetterle, a nome mio personale e di tutto il popolo italiano, il più sentito cordoglio e le espressioni di umana solidarietà per le vittime. Ed è tutto. Seconda parte di GR24, le 13:16 minuti. Abbiamo naturalmente dedicato un'ampia pagina a questo devastante terremoto e il conseguente tsunami che ha colpito il Giappone. Al momento si contano 42 morti e, viste le dimensioni del sisma e anche dello tsunami, potremmo dire solo 42 morti, ma questo è un bilancio al momento provvisorio. Dicevo che ci saremo collegati con Bruxelles, infatti lo facciamo perché è in corso un vertice dei 27 tra capi di Stato e di governo europei, pronti a tagliare, potremmo dire, definitivamente o ancora di più i rapporti con il regime di Tripoli. Sentiamo in diretta, ci aggiorna Gerardo Pelosi. Buongiorno Gerardo. Buongiorno. Sì, tra fughe in avanti e brusche frenate, l'Europa tarda ancora a dare delle risposte tempestive ed efficaci alla crisi libica, risposte sia politiche ma anche militari. I 27 capi di Stato e di Governo dell'Europa si trovano da un'ora a discutere e analizzare la situazione libica. Due le posizioni dominanti: quella che fa capo al presidente francese Sarkozy e al premier inglese Cameron, secondo il quale ci dovrebbe essere anche imminente una possibilità di raid mirati contro il clan di Gheddafi, ma soltanto dopo un via libera delle Nazioni Unite. Altri sono più cauti: il cancelliere tedesco Merkel chiede che ci sia una posizione di tutta l'Unione Europea, anche se la stessa Merkel riconosce che Gheddafi non è più un interlocutore dell'Unione Europea. Anche l'Italia è molto prudente, e pur avendo ieri sollecitato un intervento di pattugliamento navale nel corso degli incontri che ci sono stati tra i ministri della difesa e quelli degli esteri, chiede però che tutto sia subordinato a una piena legittimità internazionale e quindi una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza. Vedremo quale sarà il risultato finale di questo incontro, che si dovrebbe concludere nel primo pomeriggio. Poi i capi di Stato e di Governo si riuniranno in un altro formato, e cioè quello dell'Eurogruppo, i 17 paesi dell'Eurogruppo, per discutere sul patto di competitività, un argomento sul quale c'è già un accordo di sostanza, ma non c'è invece l'accordo sulla corporate tax, cioè la tassazione sulle società, neppure sulla parte, diciamo, della base imponibile, perché ci sono molti paesi come l'Irlanda, il Lussemburgo, la Cechia, che frenano perché vedono questo come un elemento che potrebbe scardinare i vantaggi fiscali di cui questi paesi godono ancora. E da Bruxelles è tutto. Gerardo, ti ringraziamo, ti auguriamo buon lavoro. E a proposito della crisi libica, mentre tutto ciò sta accadendo a Bruxelles, come ci ha riferito Gerardo Pelosi, il leader libico Gheddafi ha minacciato nuovamente l'Europa di sospendere la sua collaborazione nella lotta al terrorismo internazionale e all'immigrazione clandestina. Intanto le forze governative libiche stanno bombardando dal mare e dal cielo la zona petrolifera ad est di Ras Lanuf in mano agli insorti. Un barcone con una trentina di migranti a bordo è stato avvistato a 55 miglia da Lampedusa in acque internazionali da un ATR-42 della Guardia di Finanza in servizio di ricognizione sul canale di Sicilia. L'ultimo sbarco avvenuto sull'isola risale a ieri pomeriggio, 31 extracomunitari su un barcone alla deriva. La situazione in tutta l'area del Nord Africa e anche del Golfo è tutt'altro che tranquilla. Centinaia di egiziani muniti di croce e di Corano, quindi cristiani e cattolici e musulmani, hanno manifestato oggi in piazza Tahrir al Cairo contro le violenze confessionali degli ultimi giorni. Martedì sera, lo ricordiamo, almeno 13 persone sono morte negli scontri scoppiati nella capitale egiziana fra cristiani e musulmani. Reparti della polizia kuwaitiana hanno usato oggi gas lacrimogeni per disperdere una piccola e pacifica manifestazione di arabi apolidi che chiedevano il riconoscimento di alcuni diritti. La polizia, in tenuta antisommossa, ha caricato i dimostranti, erano circa 200 che si erano riuniti in una zona di Kuwait City dopo la preghiera islamica del mezzogiorno. Ed ecco che cosa sta accadendo in Arabia Saudita. La giornata della collera, indetta per oggi via internet in Arabia Saudita, è cominciata nella calma a Riyadh, dove è stata però rafforzata la presenza della polizia dopo gli scontri di ieri. Il governo, che teme il contagio, ha ribadito il divieto di manifestare. Nelle email e nei messaggi che circolano da giorni su Facebook, gli organizzatori hanno ipotizzato di far sfilare in prima fila le donne con il chador per scongiurare scontri. Non sono bastati peraltro gli annunci del re saudita, che nei giorni scorsi ha usato anche la carta delle riforme per scongiurare le rivolte, annunciando interventi sociali da 36 miliardi di dollari. Negli ultimi 10 giorni, oltre 2.000 tra professionisti, accademici, attivisti per i diritti umani sauditi, per lo più sunniti, hanno firmato 3 diverse petizioni in cui si chiede una profonda riforma della Costituzione del Regno, dove non esiste un potere legislativo eletto e dove i partiti sono fuori legge. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Abbiamo parlato del terremoto in Giappone, abbiamo parlato ancora della crisi libica di tutto il Nord Africa. Sentiamo se ci sono ripercussioni sui mercati finanziari, sulle quotazioni del petrolio. Buongiorno a Deborah Rosciani. Sì, buongiorno Enrico. Effettivamente questa mattina le nuove agitazioni in Arabia Saudita avevano spinto di nuovo verso l'alto le quotazioni dell'oro nero. Adesso invece registriamo un netto calo del prezzo del greggio sui mercati europei, proprio in conseguenza del sisma giapponese, che potrebbe aver danneggiato le infrastrutture di raffinazione in Giappone, che è il terzo paese consumatore di petrolio nel mondo. Il Brent del Mare del Nord è sceso a $114.08 al barile, il WTI, greggio di riferimento americano, è a $101.48. Il sisma giapponese sta provocando anche dei cali in borsa, gli indici in Europa sono in ribasso di circa un punto, anche il Nikkei a Tokyo stamattina è chiuso con un -1.72%. Stanno scendendo soprattutto i titoli del settore assicurativo per i timori che il cataclisma potrà avere ripercussioni sui conti delle società, appunto, del settore assicurativo, come vi dicevo, particolarmente penalizzate le società tedesche. Oggi l'Europa, vi dicevo, è negativa. C'è un dato relativo invece all'Italia, il prodotto interno lordo, che è cresciuto nel 2010 dell'1.2%, lo ha rilevato stamattina l'Istat, precisando che si tratta del dato corretto per gli effetti di calendario. Lo scorso anno ha avuto una giornata lavorativa in più rispetto al 2009 ed è stato rivisto così al rialzo il dato che dava la stima preliminare diffusa il 15 febbraio al più 1,1% appunto di prodotto interno lordo. Enrico, è tutto. Grazie Deborah Rosciani. Adesso cambiamo completamente pagina. In Lombardia l'infiltrazione delle cosche mafiose avanza, come ha recentemente avvertito la Direzione Nazionale Antimafia. Lo ricorda questa mattina il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, intervenendo ad un convegno sulle mafie a Milano e nel nord. La crisi non ha certo migliorato le cose, ha aggiunto Draghi. Non poche imprese, che hanno visto drammaticamente ridursi i flussi di cassa e il valore di mercato, sono divenute più facilmente aggredibili dalla criminalità. Rimaniamo a Milano. Il processo Mills, nel quale il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è imputato per corruzione in atti giudiziari, è stato rinviato al prossimo 21 marzo. Oggi è stato stabilito il calendario delle prossime 9 udienze, alle quali Berlusconi ha detto di volere partecipare. È mia intenzione partecipare, scrive Berlusconi in una lettera indirizzata ai giudici del processo, depositata oggi al collegio dai suoi legali e letta in aula. In questa lettera il premier spiega che per l'udienza di oggi aveva già in programma un impegno istituzionale a Bruxelles, ne abbiamo parlato poco fa a questo vertice europeo. Anche questo, cioè il processo, si intreccia col dibattito sulla riforma della giustizia. La riforma della giustizia è un sasso lanciato nel vuoto, cambiare la Costituzione non è l'urgenza per gli italiani, così il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani sul disegno di legge varato ieri dal Consiglio dei Ministri. Fra una settimana torneremo a parlare dei problemi del Premier, questo il pronostico di Bersani. Berlusconi invece sarebbe al lavoro per cercare il sì dell'UDC alla riforma ed evitare così il referendum confermativo. La parola d'ordine sarebbe spacchettare il terzo polo e magari rinunciare alla minaccia di rompere le coalizioni a livello locale con il partito di Casini. Con la riforma il Parlamento sarebbe impegnato 2 anni e poi si andrebbe alle urne, arrivando così al 2013. Sul fronte processuale, intanto, Berlusconi scrive ai giudici con l'intenzione di andare in tribunale per il dibattimento Mills. Il giudice Francesca Vitale, che presiede il collegio di Milano, è disponibile a stilare un calendario per ogni lunedì. C'è attesa quindi per l'udienza del 21 marzo, che potrebbe vedere la presenza di Berlusconi in aula. Il legale del Premier Nicolò Ghedini contesta poi la notizia sulla presunta modifica dell'atto di nascita di Ruby, da lui definito un trappolone demenziale. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Per rubare il rame contenuto nei cavi hanno smantellato 4 chilometri di linea telefonica Telecom, isolando tutte le utenze della Marmilla nella zona centro-meridionale della Sardegna. I 4 predatori di rame sono stati colti sul fatto dai carabinieri di Barumini, una località sarda, che li hanno arrestati. Chiudiamo con il calcio. Inter in campo questa sera alle 20.45 a Brescia. I nerazzurri, secondi in classifica, possono portarsi a 2 punti dal Milan in caso di vittoria. Sentiamo il servizio. E ora tocca all'Inter. Con il Milan obbligato a concentrarsi solo sullo scudetto, l'Inter ha davanti a sé una sfida ambiziosa: a tenere il fiato sul collo dei cugini e nello stesso tempo non perdere il treno della Champions. Non sarà facile, Champions e scudetto sono una accoppiata che scotta. In 5 giorni la squadra di Leonardo decide il suo futuro. Stasera gioca a Brescia, se vince si porta a -2 dai rossoneri. Poi martedì l'altro appuntamento, quello di Monaco con il Bayern, un altro snodo decisivo della stagione. Ma Leonardo ostenta sicurezza. Ci sentiamo proprio in grado di riuscire ad andare avanti, di riuscire a lottare in campionato. Abbiamo, diciamo, una chiara idea di quello che possiamo fare. E sentirci ancora in corso per tutto sicuramente è una grande motivazione. Insomma, ognuno vede il suo bicchiere, quello dell'Inter ancora tutto pieno, è una sorsata di ottimismo, un inno alla coppa che non logora. Quello del Milan, mezzo vuoto, è una sorsata di invidioso realismo per dire: vabbè, siamo fuori dalla coppa, così risparmieremo forze per lo scudetto. Chi ha ragione? Il dibattito è aperto e andrà avanti per un bel pezzo. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono le 13:28, è tutto per questa edizione curata e condotta da Enrico Paglierini, che vi ringrazia per l'attenzione. Alla parte tecnica Fabio Cantadori. Il giornale radio torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.